9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi parliamo di taxi non perché ci sia in progetto qualche nuova liberalizzazione, perché abbiamo deciso di prendere un caso che sta animando il dibattito soprattutto a Milano, un po' meno a Roma, anche se la questione riguarda anche Roma, e che ci consente in realtà di parlare di concorrenza e di come funziona la concorrenza, di quando, nel momento nel quale si innesta la concorrenza, molto banalmente si hanno dei servizi migliori. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, e mi rivolgo particolarmente oggi, ma non solo a loro naturalmente, mi rivolgo particolarmente oggi ai tassisti che so che ascoltano Radio 24 numerosi, oppure www.facebook.com/9in.radio24. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del caso di Uber. Che cos'è Uber? È un'azienda nata negli Stati Uniti, è approdata da poco in Italia, che offre un servizio che loro definiscono alternativo al taxi. Lo metto tra virgolette, l'ho messo tra virgolette su Facebook, lo metto tra virgolette anche qua, perché i tassisti su questo non concorderanno. Questo servizio come funziona? Hai una app sul tuo smartphone o sul tuo tablet, con naturalmente il sistema di geolocalizzazione, richiedi una macchina e questa macchina ti arriva. È nella sostanza, dal punto di vista legale, è un NCC, nella sostanza, e ti arriva una macchina pulita, ben fatta, con l'autista che ti apre la porta, che non parla al telefono durante il tragitto, e tutto quello che possiamo immaginare, ed un costo abbastanza competitivo per il tipo di servizio che offre. Iniziamo da qua dunque. Benedetta Reselucini, General Manager di Uber per l'Italia, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta nei nostri studi. Grazie. Allora, iniziamo da quello che avete raccontato voi, ma un vostro autista addirittura è stato picchiato? Sì, diciamo, ci sono stati degli episodi a maggio abbastanza aggressivi, dove i nostri autisti venivano un po' seguiti, e ci sono stati due episodi notturni di taxisti picchiati che sono dovuti andare in ospedale. E naturalmente sono stati picchiati da tassisti, sospettate voi? Non possiamo essere sicuri perché non andavano in giro con una macchina da taxi, quindi però delle persone che sicuramente erano contrarie a questo nuovo servizio. Il sospetto comunque da questo punto di vista è forte. Allora, i tassisti vi dicono: occhio, questo è un servizio illegale, è una cosa che voi non potete fare. Noi abbiamo provato a dirlo in tutti i modi, abbiamo un sacco di avvocati che ci seguono su questa entrata in Italia, perché come tutti sappiamo le leggi italiane non sono facili da capire e seguire, ma pensiamo di essere assolutamente all'interno del regolamento del 92, e ovviamente stiamo creando un servizio che non era mai esistito, quindi è ovvio che la cosa più facile è dichiararlo illegale. Però voi dite naturalmente che non lo è. Su questo poi sentiremo più avanti, avremo anche naturalmente, io ripeto, la chiamata alle armi per i tassisti, perché questa puntata serve anche a questo, a farvi raccontare che cosa pensate, a dare un'idea. 800 24 00 24. Alberto Saravalle, avvocato, docente di diritto dell'Unione Europea a Padova, creatore, tra i creatori di un'associazione che si chiama Italia Aperta. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Saravalle, benvenuto. Grazie. Benvenuto ai nostri microfoni, che poi, allora, innanzitutto è un liberale duro e puro Saravalle, e poi ci aiuta dall'altra parte perché è un avvocato, visto che vogliamo parlare di concorrenza, vogliamo parlare di liberalizzazioni e così via, è un avvocato che dice: occhio, nella lotta cancellieri-avvocati, insomma... occhio che la Cancellieri potrebbe aver ragione, quindi ci interessa anche da questo punto di vista, e magari ci ritorniamo su quello. E però voi avete, con la vostra associazione Italia Aperta, deciso di stilare delle pagelle, no? Su una serie di provvedimenti. La prima pagella che avete stilato è proprio sulla vicenda Uber e su come si sta comportando il Comune di Milano, no? Che ha pensato, un'ordinanza ancora non c'è a tutti gli effetti, ha pensato di stringere un po', insomma, di chiudere le porte a questo servizio. Sì, beh, ci sembrava un caso paradigmatico, siccome Italia Aperta si propone di dare delle pagelle sia a livello di leggi nazionali sia di provvedimenti locali per spiegare in maniera concreta alla gente come le restrizioni della concorrenza, come le asimmetrie informative, come tutti questo tipo di provvedimenti in qualche modo restrittivi nuociano nella vita di tutti i giorni, tocchino tutti, non siano un problema astratto, diciamo, da pensatori, da intellettuali, da studiosi di economia, ma intacchino la vita di tutti i giorni e la peggiorino. Questo ci sembrava un ottimo spunto per far capire come questi provvedimenti siano dannosi. Naturalmente, voi sottoponete, fate una sorta di processo, no? Cioè una sì. Sorta di giudice istruttore e poi tre. Un po' eccessivo, non siamo giudice e procuratore. Diciamo, abbiamo letto le carte e abbiamo visto ciò che il sindaco apparentemente si propone secondo quanto riportato dalla stampa, e ci è sembrato che se questa ordinanza effettivamente sarà emanata sarebbe un pessimo provvedimento, perché sarebbe restrittivo della concorrenza. Tra l'altro, il fatto che, secondo me, bisogna distinguere per gli spettatori problemi giuridici da problemi, diciamo, di politici, in senso di policy, non di politica, ma di politiche, diciamo, della concorrenza. Allora, da un punto di vista giuridico, mi sembra che il fatto stesso che ci sia bisogno di una nuova ordinanza per in qualche modo restringere le corde in qualche modo attorno a questo tipo di servizio dimostri che oggi il servizio sia legittimo, altrimenti uno farebbe valere gli strumenti che già ci sono, e quindi si vuole in qualche modo limitare la concorrenza. E questo allora porta il discorso, senza tediare gli spettatori, su problematiche di interpretazione della legge 21 del 92, delle ordinanze, su un problema più generale. Fa bene questo tipo di provvedimenti? Mi pare che tutti i giorni parliamo di bisogno di crescita, di dare lavoro ai giovani, di aprire in qualche modo la concorrenza per cercare nuovi posti di lavoro. Questo, secondo me, è un provvedimento pessimo. Allora, qualcuno ci scrive su Facebook, dunque leggiamo qualche messaggio. Il problema, scrive Luigi Rosa, è che le amministrazioni comunali sono in una posizione discutibile. Sono loro che hanno venduto e vendono licenze a peso d'oro facendo cassa, hanno tutto l'interesse a bloccare questa fonte di guadagno. A questo si aggiunge un mercato nero, che poi tanto nero non è, perché è, in realtà è pulito, di licenze passate di mano a prezzi astronomici che possono essere ripagati solamente esercitando tariffe e incassi attuali per svariati anni, presumendo l'attuale flusso di incassi. Questo scrive Luigi Rosa. Paolo Labonia, voglio dirle che non ci sottraiamo, scrive, tassisti, giornalisti, caste che non si possono toccare, non vi preoccupate, volete parlare anche di giornalisti? Nessun problema, siamo qua, parliamo dell'ordine, parliamo di quello che volete. Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Francesco Artusa, rappresento il noleggio con conducente. Io vorrei dare innanzitutto con la prima notizia, che non è una battaglia tra tassisti e noleggiatori, ma è una battaglia tra chi fa il lavoro secondo le regole e chi non lo fa. Dopodiché ci sono un sacco di cose che qui che non si riescono a dire, voi ne avete già parlato con Pagliarini, cioè ci piacerebbe un giorno avere un po' di spazio per avere una replica. È qua lei. Ho capito, qui, però sa come lo devo sapere. Parli, prego Francesco, sì, parli. Certo, buongiorno. Allora, tanto per cominciare, noi c'è più che, al di là del discorso delle regole, vorrei capire come si fa a definire un'ordinanza pessima, un'ordinanza che non è ancora stata vista. Chi parla non conosce la materia, perché il comune non ha nessun potere né di inasprire né di ammorbidire alcunché, è una legge dello Stato, il comune deve solo farla applicare. Ma al di là delle regole, noi sappiamo che quando c'è stato l'uragano, ad esempio Sandy negli Stati Uniti, o ultimamente una tempesta a Toronto, questi signori aumentano le tariffe del 300, 400, 500% in un amen, perché hai bisogno. Questo è il sistema che vogliono portare qui, un servizio a prezzo basso quando non serve e un servizio a prezzo da, non lo so, da un termine, quando serve. Facciamo una cosa Francesco, lei è un rappresentante ufficiale degli NCC? Assolutamente. Benissimo, sì, resti in linea con noi, la teniamo là, non c'è nessun problema. Intanto saluto Massimo Mancinelli, presidente della cooperativa Taxi Samarcanda di Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Allora, voi siete nell'ambito di regole non discusse e non discutibili, voi fate un offrite un servizio per cui risultate oggettivamente concorrenziali, Mancinelli. Cioè, come vi muovete voi? Che cosa hanno in più le vostre macchine? Allora, innanzitutto io volevo fare una precisazione, ho sentito prima la dottoressa che parlava di aggressione, e allora a me dispiace che quando aggrediscono i tassisti sono balordi e che quando aggrediscono gli NCC sono i tassisti, qualcosa non quadra. Comunque, a parte questo, che cosa abbiamo noi? Diciamo che da parte di Samarcanda siamo una cooperativa che abbiamo il dovere di studiare e comprendere cosa possono offrire logicamente le nuove tecnologie, cercando anche di capire come si muove il mercato e tutte le attività concorrenziali. Per questo motivo in questi ultimi anni, anche se in Italia ancora non si affacciavano queste innovative app, abbiamo studiato i vari fenomeni di MyTaxi, GetTaxi, Ailo, che già sono anni che operano in Germania. Ah, mi scusi Mancinelli, allora Mancinelli, la interrompo un attimo. Sì. Chiedo innanzitutto, conferma Roberto Scaltritti se l'audio che sento in cuffia è orribile, esattamente come esce in radio. No, mi dice abbastanza passabile. La fermo perché ci mandano qualche sms. Ah, state facendo una trasmissione incomprensibile. Che cos'è un'app? Che vi devo dire? Allora, un'app è un'applicazione, ossia un piccolo software che potete scaricare sul vostro cellulare o sul vostro tablet, tramite il quale potete chiamare questo servizio NCC di noleggio NCC. Allora, spieghiamo anche NCC, noleggio con conducente, perché anche di questo ci scrivete. Paradigmatico, ci scrivete, paradigmatico, la parola paradigmatico è un problema e lo mettete insieme a NCC e ad app. Paradigmatico vuol dire che è un esempio, facciamo Radio 24 Educational. Prego Mancinelli, finisca. Allora dicevo, queste app innovative, a parte che godono di grandi investimenti e oltre a questi grandi investimenti anche una certa simpatia da parte dei media, che non perdono occasione per pubblicizzare attraverso articoli di cronaca, ho visto anche sabato ce n'era un altro, a differenza di tutte le app che abbiamo noi come Radio Taxi, che sono anni che l'abbiamo, mesi, e che abbiamo investito economie molto interessanti e molto pesanti per tutti i soci, che non se ne parla. E questo è un po' come tassisti, non è che ci fa molto piacere. Ad esempio, noi a dicembre abbiamo presentato il nostro progetto iPad, quindi abbiamo dotato tutta la flotta di un iPad con un'applicazione studiata appositamente per il cliente, e nonostante abbiamo organizzato una conferenza stampa ed un convegno, solo un paio di quotidiani ci hanno dedicato dei tarpinetti. Devo ringraziare Radio 24 che ci ha dedicato in una trasmissione del sabato sulle nuove tecnologie il nostro progetto. Quindi diciamo che queste app godono di una certa simpatia, a differenza di quello che facciamo noi come Radio Taxi e come tassisti, che per una certa stampa siamo solo brutti, sporchi e cattivi. Quindi diciamo che è una lotta impari, a parte la legge che noi siamo costretti a rispettare e altri sembra che non abbiano questo obbligo. Ma io le dico, noi non abbiamo paura del mercato, quasi tutti i radiotaxi d'Italia si stanno organizzando, si sono ben organizzati, abbiamo delle tecnologie all'avanguardia e siamo in continua evoluzione, abbiamo delle risorse umane e delle professionalità molto qualificate, e credo che questo è un po' l'handicap che hanno queste aziende che si affacciano ora sul nostro mercato. Quindi noi abbiamo tutte queste risorse, sicuramente quelle che un po' ci mancano ultimamente sono le risorse economiche, vista la crisi che stiamo vivendo, però noi non abbiamo paura del mercato. Noi però vogliamo che questo mercato sia con regole certe, dove queste regole, come le vengono rispettate da tassisti, vengano rispettate anche dagli altri. Cioè non è possibile che comuni, per risanare le casse del comune, facciano uscire 100 licenze, comune di meno di 1.000 abitanti, 100 licenze che grazie ai rinnovi annuali e ai depositi e ai tassi di deposito incassano oltre 250.000 euro. Queste non sono invenzioni, questa è la realtà. Quello questa, Mancinelli, a lavorare a Roma o a Milano. Mancinelli è quello che ci scrive il nostro ascoltatore su Facebook, insomma, no, ci sono i due elementi, da una parte alcune appunto amministrazioni comunali, in particolare quelle piccole, che cedono licenze, non solo taxi ma anche NCC, insomma, anche per risanare le casse dello Stato, e poi dall'altra parte invece, per quanto riguarda, perché non nascondiamocelo questo, Mancinelli, per quanto riguarda le grandi amministrazioni, sanno che i tassisti sono una banca di voti e quindi tendono a chiudere oggettivamente, no? Un pochino. No. Cerchiamo di non politicizzare sempre la nostra categoria. Io credo che a Roma ci sono 8.000 tassisti e ognuno ha il suo cervello, è libero di pensare e di valutare i vari politici come agiscono e a chi dare il voto, quindi non è una questione di politica e quindi i sindaci si guardano bene da accontentarci, assolutamente no, anche perché se fosse vero questo, a Roma negli ultimi 10-15 anni non si sono mai fatti rispettare le regole per l'accesso degli NCC nel nostro territorio, figuriamoci se abbiamo avuto i comuni sia di sinistra che di destra che ci volevano accontentare. Allora Mancinelli, voglio sentire qualche altro ascoltatore, le dico la verità, su questa cosa non mi ha convinto, però insomma magari ci ritorniamo. Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi rilasciavo a quello che lei ha appena detto riguardo il bacino di voti che rappresentano certe categorie. Cioè, a me quando si parla di liberalizzazione di concorrenza viene in mente che vadano dalla A di avvocati alla Z di zampognari, compresi i notai, i farmacisti e tutto quanto. E la G, di giornalisti, mi raccomando, la Roberto. La G di giornalisti, sì. Però è un altro genere come si dice, di liberalizzazione questo. Invece non è mai possibile, non succede mai, per cui vi sono paesi, per fare un esempio, dove nella piazza ci sono 7 bar, però ci deve essere solo una farmacia, perché questa deve avere un determinato numero di abitanti. Se anche questo paese durante l'estate quadruplica, la farmacia deve stare una sola. Allora vorrei capire, quando si parla di liberalizzazioni, i politici che cosa intendono: accontentare quelli che pesano o fare veramente un lavoro serio di concorrenza e liberalizzazione? Allora, adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa. Il ragionamento di Roberto mi piace perché allarga il discorso ed è quello che volevamo fare parlando di questo caso oggi. Mi scrive Massimo Fei sulla nostra bacheca Facebook: perché non dite che Saravalle è uno dei primi firmatari di Fare, il movimento di Oscar Giannino? Saravalle conferma, immagino, no? Sì, oh, certo. Sì, benissimo, perfetto. 9 in punto. Allora, è ancora con noi Francesco Artusa, rappresentante di NCC. Sì, sono sì, qua. Ma lei la licenza dove l'ha presa, per curiosità? Io, nel comune nel quale vivo. Che sarebbe? Arese, in provincia di Milano. E lavora dove? Lavoro soprattutto nel mio territorio, ma anche a Milano. Ma il punto non è dove lavoro, il punto è da dove parto. Parte da Arese, cioè lei ogni volta la chiamano parte da Arese? Assolutamente sì, io vengo prenotato, sono a 10 km dal centro di Milano. Il problema non è da dove si arriva, il problema è la prenotazione. Quello che i signori che hanno stilato la pagella sull'ordinanza, che non c'è, ignorano, è il fatto che le macchine di Uber sono, come posso dire, sono dei taxi nascosti in giro in città, perché altrimenti non si potrebbero avere in 5 minuti. Noi abbiamo proposto ai signori di Uber, come ad altre applicazioni, di semplicemente ritardare il tempo di arrivo del cliente, cioè 15-20 minuti, in modo da dare il tempo alla persona di uscire dalla rimessa e di cogliere una prenotazione. Ma il sistema è quello lì in tutto il mondo. Allora Benedetta Rese Lucini ha un paio di cose da dire, tanto al presidente di Samarcanda Mancinelli quanto a lei, insomma, sulle osservazioni che avete fatto. Nel frattempo ci ha chiamato, evidentemente abbiamo, come dire, scatenato qualcosa, perché abbiamo in linea con noi il direttore del Radio Taxi di Milano 6969. Adesso sentiremo pure lui, insomma, con calma. Allora, prego. Allora, volevo solo dire che come applicazione una delle cose che facciamo è permettere al cliente di dare una valutazione agli autisti, e questo permette anche alle persone di migliorare il servizio. Quindi al presidente di San Marcanda volevo dire: guarda, se voi pensate che la categoria viene comunque inglobata in una reputazione, usando un sistema del genere ogni autista si mantiene il suo tipo di valutazione, e quindi riconosci quelli bravi da quelli non. E invece ad Artusi che cosa voleva dire? Ad Artusi volevo solo dire che 20 minuti assolutamente non è una giusta arco di tempo, perché è solo un modo per creare, stare lontano dai 5 minuti del taxi, ma in questo modo non determina il fatto che sei dentro o fuori dalla licenza solo se metti 20 minuti. Allora, ha voluto intervenire Gegè Mazza, direttore Radio Taxi Milano 026969. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai contendenti. Ci dica. Sarò molto lapidario, perché così sgombriamo il campo da tanti dubbi, perché Uber, ovviamente, posso dirle una cosa senza polemizzare, ma proprio giusto per chiarezza dal punto di vista informativo. Anzi, direi per correttezza dal punto di vista informativo. A, la pubblicità ingannevole inganna tutti. Quindi le cose bisogna dirle bene. Noi siamo autisti da piazza e stiamo sulla piazza. Il cliente last minute ci chiama e gli mandiamo il taxi. Loro sono autonoleggio di rimessa, devono stare in rimessa, non sulla piazza, altrimenti confliggono con quelli da piazza. B. Terza cosa, i tassametri virtuali, non vanno bene i tassametri virtuali a secondo della bisogna. Quindi questi Uber lo sa bene. Terza cosa, la legge. La legge dice che, e Uber lo sa, perché i maggiorenti di Uber non possono non conoscere la legge, altrimenti vuol dire che ignorano la legge. Allora, finché non si mettono a posto o sono in grado di cambiare questa legge, devono concorrere in modo leale. A me piace la concorrenza leale. Noi di App ne abbiamo 24 di più di loro, glielo posso assicurare davanti a un notaio questo. Per cui sono decisamente più performanti e migliori delle loro. Loro però, devono rispettare adesso Mazza, mi scusi, non facciamo chi ha l'app più lunga adesso? Scusi, la battuta. Ma però... No, ma dato che continuano a dire ma l'app, ok, va bene, l'app. Ma perché si basa solo su quello? Voi basate anche sul telefono? No, mi scusi, non è che sto propendendo. Ma io non sto parlando di metodologia, io sto dicendo, loro sono autisti di rimessa, devono stare in rimessa. Loro non stanno in rimessa, prima infrazione. Seconda infrazione, tassametro virtuale, noi ce l'abbiamo piombato e il nostro è assolutamente intoccabile, pena il penale che vai dentro in galera di brutto, e loro invece vogliono aggirare questo giochino qua. Se sono in grado di cambiare la legge la cambino. Noi, ripeto, noi amiamo la concorrenza leale. Questo tipo di giochino che stanno con questo tipo di investimento che stanno facendo loro, perché hanno tanti soldini, perché gli americani investono a destra e manca, eccetera, sì, va bene. Ma noi non siamo in America, eh. In America le grandi company affittano i taxi e taglieggiano e angustiano i taxisti, tanto per dirne una. Vogliono fare anche così in Italia? Noi non credo, noi neanche sotto tortura ci accetteremo regole così sregolate. Allora, sentiamo Filippo da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, allora, premesso che io non voglio entrare nelle pieghe della legge, perché non è una cosa così scontata, io da fruitore invece reputo che un'apertura, cioè un segno di apertura in un mercato, non solo quello dei tassisti, ma anche in altre categorie merceologiche, è invece quello che oggi da pubblico fruitore, cioè da consumatore finale, io sento di aver bisogno di un range di prodotti diversificati. E visto che si parla di app, mi permetta una provocazione. Perché non fare anche un'app dove io posso inserire il numero di matricola di quei tassisti che alla fine non mi fanno pagare il prezzo da tassametro, e se io mi incazzo ricorrono anche alle minacce, come è successo, attraverso da dall'aeroporto di Fiumicino. Grazie. A Roma Ostia. Guardi, Filippo. Guardi, Filippo, io la ringrazio e la interrompo. Non perché. Filippo, la fermo. La ringrazio e la interrompo non per altro, ma perché l'audio della telefonata era pessimo. Ma io la ringrazio soprattutto perché ci ha portato un altro punto di vista. Che è il punto di vista fondamentale, quello della maggior parte di noi, che è il punto di vista degli utenti e non è il punto di vista di chi opera nel settore, insomma, sul filo della legalità. Il ragionamento, legalità o meno, insomma, diciamo così, il ragionamento è un altro. Il ragionamento è che cosa conviene a me, utente, non che cosa conviene al tassista o a Uber. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Io porto anch'io un punto di vista del fruitore. Abito vicino all'aeroporto, la mia corsa Fiumicino-casa, tra virgolette, è una corsa non molto interessante per i tassisti perché costa sui 25 euro. Bene, cosa accade a me e ad altri colleghi che abitano anch'essi a Roma Sud, vicino all'aeroporto? Accade che quando arriviamo a Fiumicino, per esempio da Milano, ci mettiamo in fila come tutti gli altri, dopodiché quando tocca il nostro turno, insomma, il tassista, i tassisti vedono, chiedono voi dove dovete andare, cercano di fare una piccola intervista ai 4-5 che sono lì prossimi e quando sentono che siamo vicino all'aeroporto scelgono qualcun altro che magari va sulla Tiburtina, sulla Nomentana, per intenderci una corsa molto più ricca, e fanno passare avanti quelli. Insomma, io che abito vicino all'aeroporto insieme ad altri miei colleghi devo penare molto di più per prendere il tassì rispetto a se ti abitassi a Roma Nord. Sì, io sono stato... guardi Fabio, guardi Marco, su certe cose sfondo una porta aperta, perché poi alla fine utenti siamo tutti. A me è capitato di essere rifiutato per una corsa da Bergamo Orio al Serio a Bergamo, e dato che non era Milano, insomma, m'hanno cacciato via in malo modo. Allora, Alberto Saravalle, molte osservazioni anche sulla vostra pagella, dicono, ma insomma, questa ordinanza ancora non c'è. Ma noi diamo delle, diciamo, valutazioni su quello che è il problema in astratto, è stato annunciato dalla stampa. In ogni caso la funzione di queste pagelle è anche quella di fare delle, diciamo, in qualche modo delle pressioni su chi deve emanare le leggi, perché ci rifletta a portare un punto di vista che, come ha detto lei, non è il punto di vista delle categorie interessate né da un lato né dall'altro, ma quella del consumatore, quello del fruitore. Quindi proprio questa è la nostra ragion d'essere. Attenzione, Comune di Milano, stai proteggendo una categoria e quindi un gruppo limitato di soggetti a danno, a nostro avviso, di quello che dovrebbe essere invece l'utilizzatore più ampio, cioè la collettività. L'utilizzatore finale, mi stava per dire. No, per carità. allora, ci scrive Giovanni Sestini sulla bacheca Facebook: 10, 100, 1000 Uber, la concorrenza deve essere libera e totale se vogliamo avere progresso e crescita, ma di certo non possiamo pretendere che questo concetto lo comprendano i privilegiati del numero chiuso, come i tassisti, gli avvocati, i notai, aggiungo come al solito, così no, evitiamo i giornalisti naturalmente, anche se non è che stiamo proprio privilegiatissimi. Comunque, come non possiamo pretendere che a capirlo siano le amministrazioni pubbliche, tantomeno quella, vabbè, insomma, qua c'è un giudizio politico, vetero comunista di Pisapia. Allora, io voglio riprendere Massimo Mancinelli, presidente della cooperativa Taxi Samarcanda. Insomma, ha sentito come sta virando il dibattito, ha sentito quello che le risponde la Lucini, Benedetta Rese Lucini. La dottoressa Lucinetti, loro fanno le customer con le stelline. Noi le customer le facciamo intervistando i clienti, sia quando scendono dai nostri taxi e sia andando a intervistare sia a Fiumicino che alla stazione. Abbiamo dei dati molto incoraggianti, non solo per il servizio da Marcanda, ma quello che è il servizio taxi a Roma. Anche perché voi Mancinelli siete molto duri con i tassisti che sgarrano tra i vostri, no? Sì, esatto. Esatto. Ma non siamo solo noi, anche gli altri radiotaxi sono molto duri. Se il cliente fa reclamo, logicamente, perché tanti clienti poi evitano e non riusciamo a capire perché. Anche il comportamento di Fiumicino, quello è un danno non solo al cliente, ma anche al tassista che sta dietro, che sta in fila, perché poi lo prende sempre lo scarto, lo prende come sappiamo definirlo noi, sempre quello che sta a settimo, ottavo. E siccome noi a Fiumicino paghiamo una vigilanza e la paghiamo anche abbastanza, dovrebbero essere i vigilantes che dovrebbero evitare questo scempio. perché a Fiumicino è un sito molto delicato dove la sicurezza è alla base di tutto e noi non riusciamo a capire come all'interno dell'aeroporto, davanti a polizia, carabinieri, vigilante, finanza, ci siano gli abusivi che si battono le corse. Allora, se vogliamo parlare di regole, noi siamo i primi che le vogliamo rispettare. Allora, sbagliano i nostri colleghi che scelgono una corsa, perché chi è il primo prende la prima corsa che arriva. Mi scusi Mancinelli, ma non è meglio una roba pulita come quella di Uber piuttosto che gli abusivi di Fiumicino, che naturalmente sono un problema? E le aggiungo un'altra cosa, però, e questa è l'osservazione di fondo, è quella che faceva l'ascoltatore, insomma, voglio dire, un comportamento così non è accettabile. Cioè, se devo andare da Fiumicino e fare una corsa ai 20 euro... mi devi portare, non ci sono storie, scusi. Perché tanto sicuramente a quel signore un tassista a casa l'ha portato, che non sia il primo, che sia il secondo e il terzo, ma sempre un tassista l'ha portato, quindi noi il servizio lo diamo. Il problema è come svolgiamo questo servizio e come si permette a certi nostri colleghi di non rispettare le regole a danno degli altri colleghi. E questo è interesse anche nostro. Se noi paghiamo una vigilanza, la vigilanza deve fare il suo dovere, come c'è la vigilanza a Linate, come c'è a Malpensa e tutti quanti. Quindi, siccome noi stiamo in fila, prendiamo dei numeri, facciamo file anche di ore, quando arriviamo sotto agli stalli vogliamo prendere la nostra corsa. E questo tante volte non è possibile perché c'è chi non rispetta le regole. Noi vogliamo il rispetto delle regole, siamo i primi a volerlo. Allora, ci scrive un paio di messaggi invece che mi arrivano su Twitter. Il Ramone scrive: dite ai presidenti dei tassisti che al cliente non frega niente di tassametro e rimessa, ma di servizio e costo. E penso che si riferisse soprattutto al presidente, al direttore del 6969, perché è quello che ne ha parlato un po' più intensamente. Antonio Calabretta scrive: tempo medio per avere un taxi senza chiamare 20 secondi, tariffa aeroporto centro 25 euro. Ma aggiunge: vivo a Madrid. Ci sono dei dati interessanti sui quali poi magari avremo modo anche di sollecitare ancora una volta Mancinelli, che sono certo dei dati vecchi, però insomma i cambiamenti negli ultimi 10 anni non possono essere stati enormi. È un studio della Banca d'Italia del 2007 sul servizio taxi e che indicava anche i numeri di quante licenze taxi ci fossero ogni 10.000 abitanti in varie città d'Europa e del mondo. Dunque, sono dati del 2000, quindi nel frattempo sono state diffuse un po' più di licenze, però Washington 120 ogni 10.000 abitanti, Barcellona 99, Londra 83, Dublino 52, Stoccolma 40, Praga 39, Monaco 29, Auckland 28, Parigi 25, Roma 21, Milano 18. Anche di questo dovremmo parlare prima o poi. 9 in punto. No, Claudio Iannazzi che mi scrive su Facebook: oggi non siamo di Marchetta, segnalo che abbiamo il presidente di una cooperativa di taxi, ne abbiamo ospitato un'altra, ha chiamato un rappresentante degli NCC ed è ancora qua in onda con noi, quindi nessuna Marchetta, stiamo mettendo a confronto delle opinioni. Gianluca da Siena, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, ne approfitto per salutare Mancinelli che conosco. Allora, io volevo dire una cosa. Tassista lei, quindi. Sì, tassista. Sono stato anche nel consiglio d'amministrazione del Consorzio Nazionale Trasporto Persone. Dicevo una cosa, si parla di liberalizzazione, e va bene, però qui ci si dimentica e comunque i tassisti applicano delle tariffe, sono tariffe prestabilite, fisse, rigorosamente da tassametro, come diceva il collega di Milano. Quindi io voglio dire, la liberalizzazione poi si rifletterebbe negativamente anche su questa cosa qui, cioè se si liberalizzano le licenze. Lo sa Gianluca, le posso dire una cosa? Io su questo concordo perfettamente. Io su questo sono perfettamente d'accordo, devo dirle la verità. Prego, comunque continui. Nel senso però, che sì, cioè se si liberalizza si devono liberalizzare anche le tariffe, vedrà come poi scendono anche i prezzi però. E io invece penso proprio che i prezzi poi aumentano, perché aumentano le licenze, aumentano i prezzi, non possono diminuire, lo sa, perché semplicemente perché poi quando si arriva in fondo il tassista deve pagare le sue tasse. Io non gli faccio un discorso di rientro del costo che eventualmente i tassisti hanno pagato per l'acquisto della licenza. Io faccio semplicemente un discorso fiscale. Quando si arriva a un fondo, buonanotte, come si dice, insomma, comunque il fisco chiede sì. per forza di cose, ovviamente, Gianluca, cioè, Gianluca, pagate le Gianluca scusi, mi permetta sono un attimo emozionato, mi scusi. Infervorato. Cioè, il fisco chiede comunque le tasse, per cui io se invece di fare 10 corse ne fa 5, quelle 5 corse e devono stare quante quelle altre 10, una discussione. Gianluca però mi scusi, il punto, lo snodo che vorrei identificare io è esattamente questo, cioè il punto è che al momento il mercato dei taxi non ha quasi alcuna segmentazione, cioè in questo momento, tranne rari casi, non c'è alcuna segmentazione né di prezzo né di qualità. C'è una segmentazione di qualità di servizio alla quale non corrisponde un prezzo maggiore. Le faccio un esempio adesso, non per celebrare Samarcanda, però francamente io non vedo perché Mancinelli e la sua cooperativa non possano tenere i prezzi lievemente più alti, visto che c'hai il wifi in macchina, il POS dappertutto e l'iPad a disposizione del cliente, le macchine pulite e cacciano a pedate nel sedere chi non rispetta le regole. Mancinelli, scusi, questo ragionamento non potrebbe andare bene, cioè liberalizziamo, diamo una botta di liberalizzazione, però liberalizziamo anche sui prezzi. No, allora, innanzitutto noi siamo convinti che il nostro futuro dovrà puntare esclusivamente sulla professionalità, sulla qualità e sulle tecnologie, e se non comprenderemo queste priorità io credo che difficilmente supereremo la crisi. Ma se lei mi parla di liberalizzazione, ci sono degli esempi eclatanti, no? Ci sono state città dove hanno provato a liberalizzare, il servizio è peggiorato, i costi sono aumentati, i clienti non sono più sicuri e quindi anche in quelle amministrazioni comunali dove si è tentato di liberalizzare stanno correndo ai ripari. Barcellona è stata una delle prime città che per le Olimpiadi ha voluto provare questa esperienza e credo che già se andiamo a vedere l'Irlanda o Barcellona ci facciamo un quadro di quello che potrebbe avvenire in Italia. Quindi noi non siamo d'accordo, io preferisco avere gli stessi prezzi che hanno gli altri colleghi, anche se effettivamente diamo un servizio di qualità forse migliore, ma non su tutti quanti, perché ci sono altri colleghi che hanno macchine anche più belle delle nostre e hanno, come si dice, servizi e parlano magari due o tre lingue, perché con questa crisi devo dire che nella nostra categoria sono arrivati molti laureati, quindi da questo punto... È un po' tocca ingegnarsi. Allora, la fermo Mancinelli, voglio sentire qualche altro ascoltatore. Raffaele della provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, senta, l'altra settimana siamo stati a Liverpool per una laurea e abbiamo usufruito del taxi. Allora, i ragazzi, che siccome è una città universitaria, i ragazzi utilizzano tantissimo il taxi in città e devo dire che la sera quando li chiami, i taxi li fermi per strada per attraversare la città, abbiamo speso l'equivalente di 8 euro. Invece quando li chiami dalla centrale e vengono a prenderti sotto casa, per fare lo stesso tragitto ti fanno spendere l'equivalente di 5 euro. Cioè sono 3 pound, quindi 3 sterline, nemmeno di 5 euro. Cioè la cosa mi sembra paradossale, rimanere in fila, perché non girano questi taxi e la gente invece di utilizzare le macchine private utilizza i taxi di continuo, i taxi caricano la gente, li fa, se devi spostarti di un chilometro, gli fai pagare giusto l'equivalente di 2-3 euro, però giri tutto il giorno e guadagni tutto il giorno. Grazie Raffaele. Saravalle, vorrei ricoinvolgere lei a questo punto, perché io... Ha sentito quello che dice Mancinelli? Dice no, io voglio che le tariffe restino le stesse per tutti. Ma guardi, è un po' quello che ho sentito, è un po' un discorso che fanno tutte le categorie. Ah, io mi preoccupo della sicurezza del cliente. Anche la vostra sarà. Assolutamente, io per primo ho scritto a riguardo, gli avvocati hanno chiesto di essere considerati diversi, speciali, perché hanno una categoria diciamo tutelata dalla Costituzione, i diritti del cliente. Io francamente credo che sia un'altra delle tante posizioni privilegiate di alcuni alcune categorie che in realtà guardano principalmente al proprio interesse e cercano di giustificarlo dicendo il povero nostro cliente, consumatore, quello che sia. E purtroppo non riusciamo a fare nulla in Italia perché c'è una sommatoria di tutte queste categorie, come ha detto lei, il farmacista, il notaio, l'avvocato, il taxista. È chiaro che nessuna da solo risolve i problemi che abbiamo, i problemi sono molto più ampi, però certamente gli studi ci dicono che se riuscissimo a liberalizzare i servizi, e il poco che è stato fatto lo dobbiamo all'Europa, avremo una crescita significativa in termini di PIL, in termini di occupazione e di salari, ma dovremmo farlo dappertutto, in tutte le categorie, primi gli avvocati, per carità. Francesco Artusa è ancora con noi, no? Sì, sono qui. Allora, volevo chiederle questo, visto che perché poi la guerra non è solamente... Allora, siete uniti voi NCC generici e i tassisti nella guerra contro Uber, e però normalmente la guerra sarebbe tra voi e i tassisti, no? Sì. Anche il fatto che, per esempio... Ma i taxi possono avere delle prenotazioni? Perché il servizio di prenotazione dei taxi esiste, e però... Sì. Beh, lì non voglio annoiare gli ascoltatori. No, non a noi, lo dica in 30 secondi. Allora, vabbè, noi nasciamo per fare i servizi su prenotazione, mettiamola così. Comunque, io volevo dire, lei non ha trovato il taxi a Bergamo, l'altro signore deve fare la corsa piccola. Cioè, non ho sentito nessuno però dire, ho prenotato il mio noleggio con conducente e non è venuto nessuno. Per cui esiste già una concorrenza al taxi. Noi non siamo le auto blu, non siamo le auto dei politici, siamo un servizio alternativo al taxi. Per cui invito gli ascoltatori a provarci, ma a prenotarci. E detto questo, però, io volevo solo dire un'ultima cosa al signore di Italia Aperta. In questo momento c'è una legge ancora più restrittiva del noleggio con conducente e se ne sta occupando la Comunità Europea, addirittura la Corte di Giustizia del Lussemburgo. Quindi nessun organo di stampa si è interessato alla vicenda e, se permette, dal mio punto di vista è un po' strano che ci si occupi di questa vicenda quando arriva Uber. E poi dicono, noi facciamo un interesse del consumatore. Allora, qualche giorno fa, ma gliel'ho postata anche sulla loro bacheca di Facebook, ma sono tanto aperti da non rispondere mai, a Toronto è successo, c'è stata una tempesta e le tariffe di Uber sono aumentate del 300% in quel preciso momento, oppure il 30% di provvigione che Uber prende dai miei colleghi noleggiatori e sui quali paga le tasse in Olanda, quindi sono un bene per i consumatori. Beh, o no? A questo punto, guardi, dato che abbiamo 2 minuti, devo far chiudere Benedetta Rese Lucini. Allora, diciamo prima di tutto una cosa, le tariffe che noi decidiamo di mettere, il cliente decide di accettarle, quindi se un cliente decide di accettare una specifica tariffa, come decide con gli NCC, e ce ne sono tanti che agli stranieri fanno dei prezzi assurdi, se il cliente dice che gli va bene, a questo punto è tutto normale. Seconda cosa, noi non facciamo un disservizio al cliente, perché noi continuiamo a crescere in una maniera esponenziale in tutti i paesi del mondo, piacciamo tutti, e ovviamente se questo è solo permesso dal fatto che la clientela continua a tornare. Che è successo? A Toronto che è successo? A Toronto c'è stato poche settimane fa un'alluvione, e il nostro sistema funziona che quando c'è ci sono poche macchine, si alzano i prezzi per fare in modo che ce ne siano di più, per controllare domanda e offerta in automatico. E non è tarato naturalmente per emergenze di questo tipo. Va bene, insomma, mi sembra che su questo abbiamo chiarito. Allora, noi purtroppo dobbiamo chiudere, insomma, vedremo se ci sarà occasione di ritornare su tutto questo e soprattutto su questi temi della concorrenza, delle liberalizzazioni, dell'effetto che hanno, di come si possono cambiare le cose, di come si può per certi aspetti aprire un po' il mercato. Ringrazio Benedetta Rese Lucini per essere stata con noi, Alberto Saravalle, Massimo Mancinelli. A questo punto saluto anche Francesco Artusa, che è diventato ospite aggiunto. Chiedo scusa a Paolo da Verona e a tutti gli ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire, come sempre Alessandro Marcotulli, prezioso, in redazione, e poi oggi c'era Roberto Scaltritti in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 70 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.